Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e bentornati a Salva Danaio. Buona giornata, per modo di dire, perché se il nostro parametro è quello che sta accadendo sui mercati, non c'è modo di darvi proprio il buongiorno. Ieri in particolare, oggi speravamo di darvelo, invece a quanto pare il rimbalzo delle borse europee avviato, tentato questa mattina presto, è rapidamente fallito in mattinata. Adesso gli indici sono tutti di nuovo in forte difficoltà in Europa. L'unica eccezione è Parigi, che ha sbandato un po', adesso recupera di nuovo lo 0,4% e sulla parità Francoforte. Londra sta perdendo un punto percentuale abbondante e anche Milano perde l'1,18% sull'S&P MIB, protagonista ieri di uno scivolone il peggiore d'Europa, meno 6% sul finale di seduta. Anche stamattina per colpa dei titoli bancari è arrivato a perdere il paniere dei 40 titoli guida di Milano il 2,5%, adesso sta tentando di risalire ma c'è ancora una forte difficoltà. Dicevamo ieri sui mercati azionari un'altra seduta da brivido, come quella che si era già vista venerdì scorso con la pubblicazione del dato sul prodotto interno lordo americano. Wall Street ieri, al termine della sessione, è finita a confermare i minimi dal 1997 sotto i 7.000 punti, cioè i minimi da 12 anni a questa parte. Il mercato non ha intenzione di ricominciare a risollevarsi e approfitta delle notizie che arrivano ogni giorno per scendere ancora. Al quadro terribile che riguarda il settore bancario, ai governi appunto sempre più impegnati a mettere in campo tutte le misure e le risorse possibili per affrontare questa crisi e ricapitalizzare le banche, si unisce anche quello che sta accadendo alle economie dell'Est Europa. Proprio dal vertice di Bruxelles del fine settimana c'è stato un secco no alla proposta di un mega piano coordinato di aiuti finanziari per queste economie, alcune delle quali sull'orlo della bancarotta. Insomma, il nostro ennesimo bollettino di guerra. Cercheremo insomma di commentare quello che sta accadendo un po' con il sorriso per non incupire oltremodo i nostri ascoltatori. Chi è con noi questa mattina? Ringrazio Nicola Annunziata, strategista per il settore azionario della società di analisi indipendente JC Associati. Bentornato, Salva Danaio. Grazie a voi per l'invito, buongiorno. E bentornato anche a Luca Pierazzi, responsabile per l'Italia di East Capital. Anche in questo caso parliamo di una società di gestione indipendente specializzata proprio nei mercati finanziari dell'Est Europa, e anche adesso insomma ne stiamo vedendo delle belle. Bentornato, Salva Danaio. Grazie, buongiorno. Microfoni aperti ai nostri ascoltatori come sempre. 800 24 0024 è il numero verde a cui potete utilizzare appunto per sollecitarci anche su qualche aspetto che rispetto a questa crisi vi interessa di più. 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Prima di entrare nel merito di questa nuova ondata di vendite che sta travolgendo il mercato da qualche giorno a questa parte, volevo dare un'occhiata a Piazza Affari, a quello che accade, chi sono i titoli che si stanno salvando dalle nuove vendite di questa mattina. Prismian più 4,29, A2A più 1,62, Lottomatica più 1,44, la ex Autostrade più 0,8, Finmeccanica più 0,6, Snam Rete Gas più 0,6, insomma un orientamento verso il settore difensivo, mentre a scendere la solita Seat pagina gialla. Anche stamattina non manca l'occasione di perdere 8 punti percentuali: il Banco Popolare meno 4,23, Pirelli meno 3,88, Unicredit meno 3,38% in questo momento, il titolo è arrivato a 85 centesimi per quello che riguarda il prezzo. Monte dei Paschi meno 3,37, Autogrill meno 3,31, Tenaris meno 3, Mediobanca meno 3. Nicola Annunziata, sento che sta sospirando. Meglio che sto zitta, non devo continuare. Un bollettino di guerra. Infatti, non utilizziamo in genere nessun'altra definizione per così inquadrare un po' il periodo. Ce ne sarà un sinonimo, non lo so. No, direi, perché questa situazione per molti versi è peggiorativa anche rispetto al decennio 29-40. Perché poi chi fa il nostro lavoro è andata a ripercorrere tutto quello che era successo, motivazioni, tipologie di intervento, statistiche. E se andiamo a vedere per esempio i default impliciti nel debito societario, sia le AAA sia anche i rating inferiori, siamo su una situazione estremamente peggiore rispetto al 1932, che era stato l'anno in cui si era verificato il maggior numero di fallimenti. Quindi direi che non solo questa situazione è paragonabile al 29 come azione di mercato, ma è addirittura molto peggiore. Ora bisognerà vedere però, allora un americano su quattro perse il lavoro. Io faccio molta fatica a credere che in questa situazione, data la comunque celerità di intervento dei governi e delle banche centrali rispetto al 29, ci arriveremo in quella situazione lì. È comunque una situazione estremamente diversa rispetto a tutte le altre che possono essere prodotte in termini di esempio, perché questa è proprio la crisi del credito, e ragionavamo prima proprio a microfoni spenti con Luca Pierazzi, sul quale poi ci focalizzeremo l'attenzione sulla situazione dell'economia dell'est. Il problema è che senza l'appoggio di una banca non si fa niente. Questa è una crisi proprio che denuncia apertamente questo, Pierazzi. Beh, rispetto al 1929 c'è una grande differenza. Lì la crisi iniziò nell'economia, e questa, la crisi economica, il rallentamento economico fece esplodere una bolla finanziaria. Qui è esplosa una bolla finanziaria e si è portata dietro, si è trascinata dietro l'economia. Diciamo che in qualche maniera la finanza si è aggrappata all'economia e l'ha tirata giù, la sta, come dire, facendo affogare. Ma l'economia, finché non sono emersi i problemi finanziari, quindi quelli che originariamente erano in subprime, questa è stata chiamata la crisi dei subprime all'inizio, poi si è scoperto che non c'erano solo i subprime, che era solo una piccola parte, la dinamica è stata completamente diversa, insomma, dalla finanza all'economia. In quel caso fu più dall'economia alla finanza. Ci fu un analista che allora si accorse che c'era qualcosa che non andava, perché si accorse che si stavano fermando i treni negli Stati Uniti, e i treni portavano le merci, e l'euforia continuava e tutti continuavano a spendere, a investire e anche a comprare in borsa, e intanto i treni si fermavano, le merci non circolavano. Se le merci non circolano vuol dire che non escono dalle imprese e non vanno ai consumatori. E così cominciò la cosa. Non è stata questa la genesi di questa crisi. Infatti, allora avremo modo di sviluppare tutto questo anche nel corso di Salvadanaio, intanto però con la nostra scheda ripercorriamo quello che è successo ieri. Sembra non esserci più nessuna notizia positiva in grado di confortare il mercato e infondere fiducia negli investitori. Dopo i ribassi di venerdì scorso, in seguito al crollo superiore al 6% registrato dal PIL americano e al passaggio di Citigroup nelle mani del Tesoro, la settimana borsistica è iniziata nel peggiore dei modi. Complici i rinnovati timori di una recessione economica dopo il no di Bruxelles al maxi piano di intervento nei paesi dell'Est Europa, alle prese con una crisi senza precedenti. E il contraccolpo sulle borse non ha tardato a manifestarsi. Ieri, infatti, i listini del vecchio continente sono scesi ai minimi da 6 anni, bruciando circa 200 miliardi di euro, mentre Wall Street ha addirittura violato al ribasso, per la prima volta dal 97, la soglia dei 7.000 punti. Piazza Affari non è stata da meno. Il lunedì nero delle borse ha portato con sé un conto salato per Milano, che ha bruciato 18 miliardi di euro di capitalizzazione. L'epicentro, ancora una volta, è stato il comparto finanziario, ieri messo a dura prova dai dati 2008 del colosso britannico HSBC, che ha visto il proprio utile crollare del 70% e ha annunciato un aumento di capitale da 12,5 miliardi di sterline, il più grande mai lanciato in Gran Bretagna. Una notizia arrivata mentre dagli Stati Uniti il colosso AIG annunciava di aver chiuso il quarto trimestre con una perdita di circa 62 miliardi di dollari, la più alta mai registrata nella storia americana. Tanto che, per evitare il fallimento del colosso assicurativo, il governo a stelle e strisce è dovuto intervenire con una nuova iniezione da 30 miliardi di dollari, che si aggiunge a quelle precedenti da 150 miliardi. Nonostante il panorama tutt'altro che roseo, da parte degli operatori sembra arrivare però qualche cauto segnale di ottimismo, anche se in questo contesto ritrovare la fiducia e tornare a investire sembra soltanto un'illusione. 800 24 00 24, un ascoltatore è il numero verde per intervenire in diretta. Carlo è molto infastidito dai toni che utilizziamo per descrivere la situazione. Carlo, così per consolarla le dico che sono in molti altri a farle compagnia, mentre altri addirittura sostengono che a volte siamo un po' troppo pessimisti e forse non giudichiamo in maniera abbastanza rigida e severa quello che sta accadendo. Quando lei e il suo collega collega, probabilmente si riferisce a Sebastiano Barisoni a Focus Economia, smetterete di parlare di crolli, ma di cali e fanalino, di coda per la borsa, sarà un giorno memorabile. Io non saprei come altro definire un calo del 6% per un indice azionario. Nicolò Nunziata, mi scusi, ma è davvero eccessivo definirlo un crollo? No, se consideriamo la quantità di denaro, di ricchezza che viene distrutta a livello mondiale, si può parlare di un vero e proprio crollo. No, anche poi, perché vorrei anche ricordare che l'S&P MIB con il 6% di ieri ha portato la perdita da inizio anno ad oltre il 30% ed era reduce da un crollo del 50% l'anno scorso, anzi aveva dimezzato completamente il suo valore, per cui... Il nostro è sicuramente il peggior mercato e la colpa è dell'eccessivo peso di pochi titoli, tra l'altro in gran parte finanziari. Quindi sempre colpa delle banche. Purtroppo sì. Le banche che tra l'altro, almeno le due che sono cadute particolarmente, di nuovo ieri, Unicredit e Intesa, sono molto esposte anche verso le economie dell'est. Pierazzi, e qui andiamo all'altro fortissimo tema all'attenzione della cronaca finanziaria in questo momento. Cosa pensa dell'esito del vertice di Bruxelles del fine settimana? Bah, francamente non mi aspettavo nulla di diverso. Mi sembra che fosse arrivata una provocazione dall'Ungheria che chiedeva un piano consistente, immediato e direi anche generalizzato, un finanziamento di 180 miliardi distribuito a tutta l'area. Mi è sembrato più che altro un ballon d'essai, un tentativo di provocare, un tentativo di farsi dire no per poter replicare bene e allora che cosa fate. E in qualche maniera ha funzionato, perché mi sembra che ci sia una tendenza a porsi la questione di qual è la situazione dei paesi nell'Europa dell'Est, che è una situazione molto, molto legata a quello che sta succedendo da noi, direi causata da quello che sta succedendo da noi, ancora di più da quello che è stato causato dalla crisi finanziaria che arriva dagli Stati Uniti. Qual è il paese che sta vivendo la situazione più preoccupante? L'ultima economia che è stata pesantemente declassata è stata l'Ucraina, se non ricordo male. L'Ucraina sicuramente è un paese in grande difficoltà, ormai anche difficoltà sociale, perché la disoccupazione si è impennata, è uno dei paesi che comunque aveva i redditi inferiori, ha una situazione politica di stallo, perché la rivoluzione arancione non ha poi dato luogo a maggioranze forti e politiche decise, quindi sicuramente l'Ucraina, ma per un verso o per l'altro sono almeno 4 o 5 paesi che sono in una certa difficoltà. Credo che per quello che riguarda l'Europa dell'Est occorra però risalire alle cause, cioè a come si è arrivati a questa situazione, e questo credo che spieghi molto, perché ricordiamoci che 6 mesi fa questi paesi, la maggior parte di questi paesi, stava ancora crescendo a tassi del 2, 4, 5% di GDP, di crescita di GDP l'anno. Quindi il prodotto interno lordo, sì. La crisi non si è prodotta lì, a un certo punto si sono chiusi i rubinetti del credito dall'oggi al domani, e io credo che, come può capire qualunque imprenditore, qualunque artigiano, se da domani le banche dicono a qualunque artigiano imprenditore non solo non ti do più un euro, ma restituiscimeli anche, è difficile continuare a crescere, comincia a diventare difficile sopravvivere. Tutto questo si sta riflettendo in un fortissimo calo delle monete di riferimento in questo momento, poi magari su questi punti ci arriveremo. C'è anche una tendenza abbastanza particolare sulle obbligazioni governative che questi paesi stanno emettendo, e poi, come segnalava anche Plus 24 di sabato scorso, però attenzione anche a fare delle distinzioni, perché non tutte queste economie si trovano nella stessa precaria condizione, per cui forse si può ancora continuare a guardare con un po' di interesse a quest'area, e magari poi parleremo anche di paesi specifici. Nicolò Nunziata, una curiosità rispetto a quello che è accaduto ieri sul mercato, così aiutiamo anche i nostri ascoltatori a capire qualcosa in più rispetto alla terminologia finanziaria che utilizziamo sempre per spiegare i cali di borsa e tutto quello che sta accadendo, ma poi ecco, sono termini che non sono molto afferrabili per tutti. Ieri mattina la giornata è cominciata molto male, con un segnale negativo che è arrivato dal Regno Unito, quando una delle più grandi banche a livello mondiale, la HSBC, che è appunto basata a Londra, ha fatto sapere che farà un aumento di capitale enorme. Si parla di qualcosa come 12 miliardi e mezzo di sterline, adesso non mi ricordo l'equivalenza in euro e in dollari, ma è una cifra enorme. Che cosa vuol dire un aumento di capitale? Perché questo è un passo che stanno compiendo molte società per continuare a stare in piedi. Diciamo che in un momento di grande difficoltà una società per ristrutturarsi ha due possibilità. La prima è vendere degli asset, e in questo momento estremamente anomalo, perché io da quando lavoro non ho mai visto una cosa del genere, non è possibile vendere degli asset a dei prezzi, diciamo, ragionevoli. La seconda possibilità è aumentare il capitale. Per le banche si parla di nazionalizzazione quando anche questa seconda possibilità non è praticabile, perché il mercato non andrebbe a sottoscrivere in questo momento. Ora, la Hong Kong e Shanghai, io non ho idea che cosa abbia in bilancio, ma è la più importante banca per l'Asia praticamente, ed è sempre stata ritenuta una struttura molto solida. Poi negli ultimi anni, con l'esposizione, le acquisizioni fatte negli Stati Uniti nel credito al consumo, e quindi errori strategici recenti, ha indebolito la sua posizione. Però io penso che sarà uno dei gruppi che resteranno in vita e che si rafforzeranno da questa crisi poi negli anni a venire. Insomma, vedremo. Intanto io comincerei anche a far intervenire alcuni dei nostri ascoltatori, che come sempre stimoleranno la nostra discussione di questa marina, di questa mattina. Magari fossimo in qualche zona marinara saremmo sicuramente più tranquilli e più sereni. Gianni da Varese, un affezionato di Salvadanaio, buongiorno. Buongiorno e grazie per avermi chiamato. Io volevo chiedere agli esperti, prima di tutto, quali saranno i segnali premonitori, secondo loro, che ci diranno che stiamo uscendo dal tunnel? E poi cosa bisogna fare per uscire, cioè che provvedimenti bisogna prendere per cercare di accelerare l'uscita da questo tunnel? Terza domanda, se i paesi emergenti, la Cina in particolare, sono uno dei primi a uscire da questo tunnel. Grazie mille, buongiorno. Gianni, grazie a lei soprattutto per la sintesi. Io tra l'altro colgo l'occasione della domanda di Gianni da Varese per tornare alla considerazione che faceva Pierazzi prima. In sostanza Gianni ci chiede, Pierazzi, ci dica un po' che cosa ne pensa, quando questi treni ricominceranno a marciare in maniera più spedita e veloce e ricchi di merci probabilmente? E quando il credito ricomincerà a fluire regolarmente alle imprese. Questo è il vero problema. L'economia si sta fermando per asfissia da credito. Non si può far funzionare le imprese senza avere soldi. I soldi si sono fermati prima che si fermasse l'attività, prima che si fermasse la produzione. Quindi il vero segnale sarà quando ricomincerà a funzionare il sistema creditizio, il che significa che bisogna prima tornare a rendere solide le banche con una serie di investimenti, di attività non sempre creditizie, cioè non sempre di attività di prestito di denaro, ma con altri tipi di attività meno, come dire, legate alla tradizione del credito, ma più a altri tipi di investimento. Le banche hanno consumato, sprecato, buttato, distrutto una parte del loro capitale. Quanta parte di questo capitale? Questo oggi è il problema. Forse ne parlavamo anche nell'altra occasione in cui lei è stato ospite qua. Il problema è che non c'è nessuno che lo stabilisca, che nessuno che stabilisca questa cifra relativamente agli asset tossici che le banche hanno in bilancio. Loro probabilmente non lo dicono per un problema di reputazione, per evitare altre, come dire, ritorsioni da parte del mercato, o davvero è difficile quantificare questa cifra, Pierazzi? In taluni casi è difficile quantificarlo, in taluni casi a distanza di due mesi ciò che non era tossico sta diventando tossico. All'inizio sembrava che la crisi fosse solo legata a titoli dei mutui troppo allegramente concessi negli Stati Uniti, poi una cosa tira l'altra e oggi ci sono dubbi su tantissime altre asset class, su tantissimi altri tipi di investimento. Ecco, il problema sarà appunto, come diceva Annunziata prima, ricostituire il capitale delle banche affinché le banche possano ricominciare a prestare all'economia. Siamo ancora nella fase in cui si stanno contando le perdite in questi bilanci, si sta cercando di capire quanto formaggio c'è e quanto buco c'è, e prima di capire qual è la dimensione di questo groviera è difficile dire quando se ne uscirà, ma il segnale, per rispondere a Gianni, sarà quando il sistema creditizio ricomincerà a funzionare. Poi magari andiamo anche alla situazione cinese. Mi stavo chiedendo però, visto che voi avrete, immagino, Nicolò Annunziata con JC Associati, fatto un'analisi anche su questo, se la soluzione italiana, quella dei Tremonti Bond, è destinata a ricapitalizzare le banche, comunque a ricostituire i cosiddetti patrimoni di vigilanza, è una soluzione giusta? Il mercato mi pare che si stia disinteressando abbastanza apertamente a questa prospettiva, almeno a giudicare da quello che sta succedendo ai titoli bancari di Piazza Affari. Direi di sì, anche perché poi rimangono dei dubbi su come il Ministero del Tesoro procederà nel controllo poi che effettivamente le banche ricominciano a prestare denaro. Perché il Tesoro ha posto delle condizioni molto, molto vincolanti. La situazione è estremamente semplice, Pierazzi l'ha individuata in pieno. Noi stavamo pensando alla Cina, allora rispondiamo sulla Cina. La Cina fa un piano di quasi 600 miliardi di dollari come piano di stimoli, poi aggiungerà dei altri piani per singoli settori. Andiamo a tramutare tutto questo nello stesso potere di acquisto americano e vediamo che il piano cinese è enormemente più importante del piano statunitense. Io credo che la Cina possa ripartire prima di altri, a meno che non ci siano altri disordini di tipo sociale. A quel punto lì, nel momento in cui una banca centrale o un governo o il Ministero del Tesoro dà dei soldi a una banca, io credo che in Cina o la banca li presta oppure il giorno dopo il banchiere viene sostituito da un altro banchiere. Quindi io credo che questo processo che Obama ha cominciato negli Stati Uniti debba andare anche in Europa. Cioè o fai la banca e presti i soldi, oppure probabilmente la generazione di manager che ha causato tutta questa situazione va rapidamente sostituita. Tra l'altro, a proposito delle banche italiane, questo è stato un messaggio anche abbastanza esplicito che ha dato il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi al Forex di Milano di qualche giorno fa. Alessandro Profumo, l'amministratore delegato di Unicredit, ha detto chiaramente che questo invito le banche italiane vogliono coglierlo, bisogna tornare a fare banca tradizionale, noi però aspettiamo ancora qualche segnale concreto. Riparte Salva Danaio questa mattina, il nostro programma è dedicato ancora una volta agli scenari di mercato, scenari di brevissimo termine perché nessuno se la sente di fare delle previsioni che abbiano una durata più lunga di 2 ore, quindi insomma adesso a parte tutte le considerazioni, come dico spesso, folcloristiche che possono essere fatte, noto tantissimi messaggi da parte vostra. Questa mattina molti invocano ovviamente nuove regole per le banche, ma insomma sono anche circostanze che vengono invocate da più parti. C'è un ascoltatore che chiede: non sono un economista e non capisco, ma questi soldi dove finiscono? Viviamo in un castello di carta, qual è il vero valore delle cose? Andrea, il problema è questo, che agli asset delle banche non si riesce a dare un valore in questo momento proprio perché li hanno costruiti solamente con il debito e quindi con la carta. Luca Pierazzi, ritorniamo un po' sul tema che stavamo affrontando prima. Sì, il problema è questo: una società, per esempio una società in borsa, ha un valore che dipende da qual è il valore reale dell'azienda, quindi dal suo patrimonio innanzitutto, dalle sue attività, dalla sua capacità di creare reddito. In questo momento in cui non si è sicuri di quanto patrimonio, di quanto si sia ridotto il patrimonio delle banche, le banche sono nell'occhio del ciclone. Qui facciamo una distinzione che credo sia onesto fare tra le banche italiane e le banche anche di qualche altro paese, penso alla Francia, ma non solo, e quelle di tanti altri paesi. Sicuramente le banche italiane, non dico le nostre banche, le banche italiane sono sicuramente molto più solide di quanto non siano tante altre banche. Noi abbiamo anche tutto il settore delle popolari, del credito cooperativo, che continua a fare abbastanza serenamente il proprio lavoro e, come notiamo anche dalla borsa, che viene pesantemente bastonato e che ha un grado di internazionalizzazione molto più marcato rispetto alle altre. Non abbiamo solo Unicredit e Intesa, abbiamo tutte le banche popolari, abbiamo tutte le casse di risparmio, abbiamo 400 banche di credito cooperativo, che certo non rappresentano la maggioranza dell'attività bancaria, però neanche numeri poco significativi, un tessuto che è distribuito su tutto il territorio, che serve la piccola media impresa, che serve l'artigianato, che serve i professionisti, quindi insomma il tessuto bancario è molto solido in Italia, questo va detto. Rimane il problema di capire quanto talune banche in particolare hanno perso del loro capitale e quindi quanto devono anche ridurre le proprie attività, perché ricordiamoci che l'attività di una banca è proporzionale al capitale che possiede. Se io posseggo 100, posso fare come patrimonio, posso fare una certa attività, prestare un certo multiplo di questo 100. Se io posseggo 1000, ho un patrimonio di 1000, beh, 10 volte. Quanto hanno fatto negli ultimi anni invece, Pierazzi, con questo 100 di capitale? Ma a livello mondiale sicuramente un po' troppo. Quando si sente dire che il sistema bancario è andato a leva, che cosa vuol dire? Vuol dire che avendo un patrimonio di 100 ha preso a prestito magari 1500, 1900 e ha prestato 2000, cioè i propri 100 più altri 1900 che ha preso a prestito. È chiaro che su 2000 di prestiti basta perdere 50 che si è dimezzato il proprio capitale, perché sì, è vero che si è prestato 2000, ma il proprio capitale è sempre 100. E quindi se si fa una perdita di 50 su 2000 significa che ci si è mangiato mezzo patrimonio. Questo non è successo alle banche italiane, fortunatamente, però a banche di altri paesi. Però sì. In una crisi che, come dice sempre Sebastiano Barisoni, assolutamente democratica, ovviamente anche poi le banche italiane ci vanno di mezzo. Nicola Nunziata sollevava il ditino come a scuola, voleva intervenire? Sì, voglio dire che il business bancario è un business a leva per definizione. Il problema è che quando tu prendi le attività considerate non a rischio, come i mutui, e fai un mutuo al 100, o al 110, o al 120%, e lì la banca sta prendendo una precisa posizione sul valore dell'immobile. Allora il rischio di quell'attività non è... Non ti va a ridurre il rischio totale del tuo attivo di bilancio, ma te lo va addirittura a incrementare. Allora lì ecco che il capitale non basta più, quindi un tier 1 al 5 o al 6 in questa situazione non va bene. Non è sufficiente. No, tra l'altro stavo considerando anche che negli Stati Uniti adesso c'è anche questo problema, ovviamente, il crollo dei prezzi delle case che sta amplificando a dismisura la crisi, cosa che anche in questo caso al momento nel nostro paese è invece più arginata, più contenuta, perché abbiamo sì un assestamento del mercato immobiliare, però al momento non abbiamo nessun crollo dei prezzi in vista. Io credo che se ci sarà un ridimensionamento sarà comunque molto, molto graduale. Comunque andiamo alle altre considerazioni degli ascoltatori all'800240024, chissà se con Pierazzi riuscirò a parlare un po' di Ungheria, Romania, di tutta quell'area della quale volevamo parlare, però sentiamo invece il nostro ascoltatore di Vicenza. Buongiorno Francesco. Buongiorno, eccomi qua. Niente, io volevo fare più che altro una riflessione, insomma, le cose che vorrei dire sono tante, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo fare anche una critica però, proprio nei suoi confronti, cioè non nei suoi confronti personali. E vabbè, se me le merito Francesco va bene, le prendo atto, non è un problema. No, esatto, magari. Ecco, la mia domanda è questa, il discorso che io sono un ascoltatore frequente della vostra radio, ecco, che la gente si lamenta, diciamo così, del pessimismo, sì, del catastrofismo. Ecco, ma mi la mettessi in testa che la crisi è reale, cioè siamo all'inizio della crisi. Quando gli americani perdono 6% di produzione, noi abbiamo perso l'1. Vuol dire che noi siamo ancora all'inizio, perciò la crisi deve ancora venire, una crisi con perdita di posti di lavoro veramente enorme, è quello il problema. Cioè la crisi deve ancora arrivare, deve colpire i dipendenti, colpirà gli imprenditori e colpirà meno forse gli statali e i pensionati, che sono quelli che hanno un reddito che però per il momento nessuno glielo può toccare, ma la crisi verrà e avanzerà purtroppo con situazioni difficili e drammatiche. Poi quello che volevo dire, il discorso delle banche. Io mi chiedo questo, ma se fino a un anno fa il ministro Tremonti diceva che le banche erano quelle che nella famosa, l'hanno chiamata Robin Tax, sì, che in questi anni hanno fatto i soldi, sono stati solo banche e petrolieri, in questi 4-5 anni, dove le hanno messi i soldi, e adesso bisogna ricapitalizzarli di nuovo ancora, c'è una cosa inaudita e inassurda. Lo so, c'è una cosa che non è, perciò tutti i dirigenti, gente dell'Unicredit che oggi vale 0,80 fino all'inizio dell'anno vale... Abbiamo già capito dove vuole arrivare Francesco, no, guardi. Mi scusi, mi permetta, voglio finire, voglio dire, queste sono le situazioni. Ecco, la critica nei suoi confronti di questa. Mi piacerebbe che lei è molto gentile, preparata, però vorrei che lei, i suoi ospiti, io l'ascolto da anni, no? Che non è condiscendente, dovrebbe tenerli un po' sotto pressione, che dura, chi viene lì. Francesco, guardi, no, la ringrazio, tra l'altro la sento anche piuttosto disturbata, comunque ho capito assolutamente il nocciolo della sua considerazione. Io magari non mi esprimo direttamente perché in genere cerco di mediare tra gli ospiti, cerco comunque di far esprimere gli altri, persone che sono assolutamente più esperte, più preparate, più autorevoli di me. Detto questo, mi sembra che poco fa, non abbiamo fatto nomi e cognomi e non ci siamo riferiti esplicitamente alla situazione italiana, ma in quanto al banchiere che deve andare a casa, mi pare che Nicola Nunziata sia stato piuttosto chiaro, partendo dai cinesi, si è siamo arrivati, siamo passati attraverso gli Stati Uniti e arrivati in Europa. Dobbiamo darlo più esplicitamente questo messaggio, Nunziata? Dobbiamo fare un po' di pulizia anche di vertici, di manager, essere ancora più incisivi da questo punto di vista. Ma tanto al mercato che cosa cambia? La situazione patrimoniale di bilancio delle banche quella è. Ci vogliono dei risanatori rigidi, severi e forti, però... Beh, sarebbe un'ondata di fiducia. Cioè negli Stati Uniti nel 2002, se non sbaglio, dopo il caso Enron e quant'altro, la Sarbanes-Oxley, che poi è una legge criticabile per molti versi perché mette forse troppi paletti, però diciamo riportò alle responsabilità dei manager. È chiaro che tu devi distinguere, questo è un mondo che è diviso in due, secondo me. Alcuni settori dove c'è solamente un rischio, un problema di mercato, allora i manager hanno lavorato benissimo e si sono trovati uno tsunami addosso. Lì non hanno nessun tipo di colpa. E invece dei settori dove sono stati dei problemi di mercato precise. E delle responsabilità precise, errori strategici dei bonus altrettanto ed errori interessanti. Quello è un ulteriore problema, e qui andiamo anche nel campo dell'etica, a mio avviso, perché quando vediamo società andare in Chapter 11 e poi vediamo gli emolumenti, è chiaro che la cosa è assolutamente assurda. Però lì c'è un problema di azionisti. Perché gli azionisti permettono tutto questo e non cercano di... Perché è una sensazione di azionisti completamente dormienti, cioè che quello che succede nell'azienda loro non lo controllano in alcun modo. Quindi sono un insieme di problemi. Dalle crisi teoricamente si dovrebbe uscire rafforzati, quindi con non tanto maggiori regole quanto con regole più intelligenti. Allora, tra l'altro, il nostro ascoltatore faceva anche una considerazione ancora più forte, più strong sull'impatto della crisi finanziaria in termini reali. La crisi forte deve ancora arrivare. Io credo che tutte le autorità ne siano assolutamente consapevoli, stanno rivedendo a ribasso in continuazione le stime di crescita o di non crescita per i prossimi trimestri. Abbiamo tra l'altro un nuovo intervento della Banca Centrale Europea, probabilmente in settimana, sui tassi di interesse, questo tanto per così dare conferma di quella che è la consapevolezza della crisi. Per tornare però anche all'economia dell'est, oltre che a questo punto, sentirei Fabrizio da Firenze, che in realtà non ci chiede qualcosa proprio a proposito dell'economia dell'est, va oltre Fabrizio, però io sono sicura che Pierazzi anche su quest'area avrà qualche commento da fare. Buongiorno. Sì, buongiorno. Io diciamo sono un po' un contrario, nel senso che in questa situazione io sto comprando, anche perché storicamente si sa che i maggiori rialzi nascono nel pessimismo, si sviluppano nello scetticismo e si spengono nell'euforia. Ah, però Fabrizio, quindi, questa me la deve far scrivere, sì. Quindi la domanda è semplice per i vostri esperti: Vietnam è solo una scommessa o ci sono le premesse per un buon investimento? Adesso guardi, faccio una cosa, io però mando i suggerimenti per chi è in viaggio, perché faccio così, controllare negli appunti che non si sono assolutamente portati i nostri ospiti, sentiamo un po' su quest'area che tipo di indicazioni ci possono dare Fabrizio, magari anche mantenendo un occhio interessato a quello che lei ci diceva. Forse siete in pochi ad avere questo atteggiamento contrario, ma io sono sicura che qualcuno che in questo momento sta facendo incetta di azioni c'è, a prezzi scontati, li abbatte ogni giorno proprio per comprare sempre al meglio. Sì, come al solito sono distratta, era ripartita la sigla e noi amabilmente stavamo chiacchierando a microfoni spenti relativamente a quello che ci ha chiesto Fabrizio da Firenze. Io in realtà mi stavo chiedendo cosa può animare in questo momento un investitore al punto da essere interessato da un'area così lontana, quando è impossibile mantenere sotto controllo quello che ci accade sotto gli occhi, figuriamoci andare ad investire in Vietnam. Però Fabrizio, insomma, con tutto il rispetto possibile per la sua scelta di investimento, che tra l'altro è anche totalmente contraria rispetto all'atteggiamento generale che insomma manifesta una continua fuga dalle azioni, invece Fabrizio dice: io sto cominciando ad accumulare e parecchio. Riccardo Sorrentino, un collega del Sole 24 Ore che oggi ricostruisce anche quello che è accaduto ieri alle economie dell'est, in quello che sta accadendo alle economie dell'est in questo periodo, sottolineava: andare controcorrente per un singolo investitore è improponibile e irrazionale in questo momento. Luca Pierazzi, East Capital. Andare controcorrente è sempre faticoso, obiettivamente. Chiaramente chi va controcorrente immagina che la corrente si stia per girare, altrimenti non lo farebbe, e che quando la corrente si gira è fortissima, quindi lo porta subito lontano, gli dà subito un vantaggio competitivo sugli altri. Tornando a quello che diceva l'ascoltatore, il Vietnam, la risposta è: il Vietnam è un azzardo, è puro o è un'opportunità? La risposta è: che cosa ne sa lei del Vietnam? Se è un asset class, se è un paese, un'economia e un sistema finanziario che conosce bene, la risposta ce l'ha già, insomma, sa già se è un'opportunità o no. Se invece è la ricerca di un investimento esotico, alternativo e via dicendo, allora è un azzardo, è un rischio, che può essere assolutamente poi premiato, per carità, però uno sa che lo fa in quanto azzardo. Da un anno a questa parte non ci sono grandi novità dal punto di vista dell'offerta di prodotti finanziari, nuovi fondi e cose del genere, però da risalendo indietro da 12 mesi a 24 mesi fa, a 36 mesi fa, era un'epoca in cui nasceva un fondo sul Vietnam alla settimana, ma alla fine c'erano più fondi che volevano investire in Vietnam di quante azioni si potessero comprare in Vietnam, quindi c'era un eccesso di domanda. Questo eccesso di domanda non trova un'offerta, quindi sufficienti titoli vietnamiti da essere comprati, e questo crea le bolle speculative. Chi cerca il nuovo Vietnam, la nuova Algeria e così via, si trova a che fare con dei protomercati e dei protosistemi finanziari, che quindi come tali sono abbastanza fragili, e quindi va incontro a determinate difficoltà. Speriamo di aver accontentato Fabrizio, di averlo, non so, scoraggiato a sufficienza, dire non è il caso, però non lo voglio scoraggiare, conosce questo paese, quanto conosce l'economia su cui si fonda e quanto ci investe, perché non ci dimentichiamo la regola aurea dell'investimento, che è la diversificazione, per cui anche lì, insomma, tanto per vedere come va, almeno cominci a puntare delle cifre ragionevoli. È un paese che vale lo 0,0 qualcosa del PIL mondiale. Decida lui quale percentuale del proprio patrimonio ci vuole allocare. Ellen da Treviso, buongiorno, ci dà l'opportunità, credo, di mettere di fronte ai nostri ospiti un bel mappamondo per gli ultimi minuti di salvadanaio che ci rimangono. Benvenuta. Buongiorno, io sono la vostra appassionata ascoltatrice ormai da 10 anni, quindi grazie. Di dov'è originaria Ellen? Sento... Io sono da Praga. Ah, un piacevole... Ah, beh, la Repubblica Ceca, no, quindi parliamo... Sono qua ormai da parecchio tempo in Italia. Sì, ci dica. Allora, mi interessava, era una richiesta più che altro, siccome siamo paesi che siamo stati dopo il 90 più o meno accomunati tutti quanti, almeno in Italia per quello che riguarda l'Italia, ai paesi dell'est o a economie dell'est, però abbiamo direi anche abbastanza poco in comune oltre un passato di pochi anni, ecco, pochi decenni di anni. Volevo chiedere se potete fare le differenze tra i paesi con delle questioni, visto che parliamo di economie differenti, ecco, e anche come analisi. Poi io sono estremamente ottimista perché credo che le crisi, quando si arriva alle crisi, c'è sempre poi una ricrescita, una ripartenza. Bene, bene, stiamo toccando un qualcosa come il fondo, e oggi quello che è interessante di poter, una richiesta di poter vedere come ogni paese in Europa vede la propria possibilità di reazione e come sta andando ogni paese, come banche, come industrie. Grazie Elena, lei sa che ci rimangono 5 minuti di tempo, magari potessimo parlare di tutti i paesi, però Luca Pierazzi, poi Nunziata, naturalmente torno anche a lei, però questa è l'area di competenza del nostro interlocutore di Iscapital, e giustamente la nostra ascoltatrice, come dire, sottolineava il fatto che non va sempre fatta di tutta l'erba un fascio. Parliamo di quelle economie che in questa ondata di crisi enorme relativamente all'est Europa si salvano o comunque se la passano un po' meglio di altre. Noi abbiamo aperto dicendo che la proposta ungherese di una distribuzione di denaro incondizionata in tutti i paesi dell'Europa dell'est non aveva molto senso, anche perché i paesi dell'Europa dell'est hanno situazioni diverse, bisogni diversi e hanno anche capacità politiche, intenzioni politiche diverse, quindi i finanziamenti si danno a chi si impegna ad usarli in maniera appropriata, quindi a chi si impegna con determinate politiche. C'è una cosa che mi ha ricordato l'ascoltatrice, e cioè che ci sono alcuni paesi che hanno fatto parte del blocco sovietico interrompendo lo sviluppo del capitalismo per solo qualche decina d'anni, che nella storia di un paese non sono tantissimi, spesso nelle vite delle persone invece sono magari tutta una vita. Vorrei ricordare che subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'allora Cecoslovacchia, l'Italia firmò un accordo per inviare i nostri operai nelle imprese cecoslovacche. Era un accordo che fu firmato da De Gasperi per inviare 5.000 famiglie di operai italiani a vivere là e a lavorare là. Questo dà l'idea di dove erano loro e di dove eravamo noi allora. Poi la situazione si è ribaltata perché sono entrati così nel freezer di questo socialismo reale che li ha rallentati, mentre noi abbiamo continuato la nostra strada. Però è verissimo, storie diverse, origini diverse, culture diverse, strutture sociali diverse. A noi distrattamente, se li guardiamo distrattamente, sembrano tutti paesi ex socialisti o tutti paesi dell'Europa dell'Est. Ci sono differenze. La Slovenia non si considera quasi un paese dell'Europa dell'Est, anzi non si considera, hanno fatto una riunione la scorsa settimana tra paesi dell'Europa dell'Est, la Slovenia ha detto io non vengo, che ci vengo a fare, non sono mica un paese dell'Europa dell'Est io, no? La Slovacchia, la Repubblica Ceca hanno delle economie che sono molto più solide di tanti altri paesi. La Polonia anche? La Polonia anche se soffre di alcuni, diciamo, di alcuni squilibri. Ma gli squilibri per società e per economie che crescono molto rapidamente sono naturali. Io faccio questo esempio. Voi provate a fermare di colpo una persona che sta correndo, se la fermate di colpo cade perché è sbilanciata, perché è in un momento di slancio. Se voi fermate una persona che sta camminando lentamente, è nel suo equilibrio, quindi si ferma. Queste sono più le economie occidentali che, voglio dire, da questa crisi sono colpite duramente, ma non sono travolte in maniera drammatica e comunque non sono colte in una situazione di particolare squilibrio, a parte l'Italia che magari ha un po' troppo debito pubblico. Ma economie che stanno correndo fortemente non possono avere tutti i parametri perfettamente ordinati e nel momento in cui si crea una crisi di sistema il parametro debole viene chiaramente colpito fortemente, quindi pagano. Io sono assolutamente affascinata dalla sua analisi, la starei ad ascoltare ancora per ora, soprattutto da tutte le metafore utilizzate per farcela capire al meglio. Allora magari ci ritorneremo anche molto presto su questi argomenti. Io devo chiudere, fra due minuti riesco a far intervenire Marco da Firenze, ma mi deve giurare di essere telegrafico. Marco, così chiudo con la sua domanda con Nicolò Annunziata. Eccoci a lei. Sarò sintetico. Grazie. No, volevo partire dalla crisi internazionale per dire che secondo me ancora non abbiamo un ordine di idea di tutto il tossico che c'è nei bilanci delle banche, perché queste non sono assolutamente trasparenti. E questo l'abbiamo già esaurito di punta all'inizio, Marco. L'abbiamo sì. Già detto. Per la domanda vorrei dire che secondo me, visto che anche con i Tremonti bond o quant'altro, con giochi di prestigio si usano sempre soldi dei contribuenti, non troverei scandaloso che diciamo le banche fossero parzialmente nazionalizzate. Si riferisce all'Italia lei, Marco? Così è una considerazione generale, perché comunque già negli Stati Uniti stiamo percorrendo abbastanza con successo questa strada, a quanto pare. Ci atteniamo allora al panorama nazionale, Marco. La devo salutare perché ho un minuto ed è un tema talmente ampio che necessiterebbe di un'altra ora di salvadanaio. Nicola Nozziata, banche anche privatizzate abbiamo avuto nel nostro paese, se adesso ritornassero indietro con una nazionalizzazione sarebbe uno scandalo? No, direi non cambia granché. Io una cosa vorrei dire, che tra economia finanziaria e economia reale comunque c'è una notevole differenza, perché poi è vero che probabilmente non abbiamo toccato il minimo della crisi da un punto di vista dell'economia reale, però teniamo conto che l'economia finanziaria anticipa statisticamente di diversi mesi, che possono essere anche 9 in alcuni casi, andando a vedere infatti statisticamente. Infatti il problema è questo, che questo calo non sta anticipando niente di buono allora. Quindi il ragionamento da fare banalmente, quando tutti gli stimoli che stanno mettendo i governi cominceranno a dare qualche frutto, è molto probabile che l'economia finanziaria avrà già cominciato una sua ripresa. Quante banche saranno nazionalizzate in quel momento? Forse qualcun'altra. Qualcun'altra probabilmente. Vi rinvito sicuramente presto, perché questa composizione di ospiti questa mattina mi è piaciuta particolarmente. Grazie molte a Nicolò Annunziata, JC e Associati, a Luca Pierazzi, Is Capital, buon lavoro, vi faccio ritornare al vostro bagno di sangue nel pomeriggio. Io torno al mio, chissà quante ne vedremo ancora nel pomeriggio. Grazie a Gaia Romani e Valeria Coffaro per la collaborazione in redazione. Oggi Peter Bescapen, assistenza tecnica. Noi torniamo domani e torniamo sulle banche, come fanno credito adesso alla piccola e media impresa e ai piccoli imprenditori in difficoltà. Buona giornata a tutti. Thank you.